Effetto Mondo. Our democracy pushed, tested, threatened, proved to be resilient, true and strong. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Allora, cosa abbiamo ascoltato? La voce di Joe Biden. Cominciamo a familiarizzare anche con questa voce qua. Un breve discorso, 12 minuti e qualcosa, lo potete ascoltare in versione integrale, su alcuni siti ci sono anche i sottotitoli in inglese. Un breve discorso, 12 minuti, in cui ha commentato questo, quello che ieri abbiamo detto, era un passaggio formale, rubber stamping, cioè proprio soltanto mettere un timbro su una cosa, e però quest'anno più importante che mai. Quindi questo famoso rito dei grandi elettori che nei loro singoli stati in modalità fisica, è successo in Georgia perché lì aveva un significato particolare, in streaming, dove per gli stati che hanno scelto lo streaming hanno proprio, è stato proprio come un appello, cioè venivano chiamati per nome e dovevano dire I cast my vote for Joe Biden or for Donald Trump. E quindi questa famosa cifra superata dei 270 voti, 306 per la precisione, Biden ha poi fatto il suo discorso. Naturalmente ne parlano tutti i giornali perché è stato, come avete sentito, la nostra democrazia è stata pushed, è stata tirata per la giacchetta, potremmo dire, e ha dimostrato di essere resilient, e questa parola che spesso ormai usiamo anche in italiano, cioè di resistere, questa resilienza, resistere comunque e mostrarsi forte. Joe Biden poi ha ricordato che mai così tanti americani si sono recati al voto o hanno votato per posta come questa volta per eleggere il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Prossimo passaggio, lo sottolineano alcuni giornali perché c'è ancora un caveat, sì, che in inglese si usa questo termine, che è un termine latino naturalmente, cioè c'è ancora un cavillo, un punto in cui potrebbe ancora, su cui potrebbe ancora premere Donald Trump. Il 6 gennaio formalmente il Congresso degli Stati Uniti, Camera Bassa e Camera Alta, votano per, certo, per sancire definitivamente la vittoria di Joe Biden. A quel punto poi manca solo l'inaugurazione ufficiale a Washington il 20 di gennaio, alla quale molti ipotizzano comunque Donald Trump non parteciperà. Ma noi invitiamo sempre a guardare invece al 5 di gennaio, perché questa data ormai c'è il famoso voto. Il voto della Georgia, sì, perché appunto a quel punto poi si delineerà anche questo famoso congresso che è ancora diviso. Oggi, è ancora diviso, è ancora molto bloccato, ne parlano tutti i giornali, c'è Financial Times che titola The Little Guy Pays, cioè l'uomo comune paga, sì, il prezzo. Perché? Perché sono le small businesses e le persone, appunto magari anche ditte individuali, che non hanno ancora potuto avere questo terzo pacchetto di aiuti perché questa legge, e lo sottolinea anche Wall Street Journal, è bloccata in congresso con una serie di veti incrociati tra repubblicani e democratici, e quindi gli aiuti non vengono sbloccati. CNN sottolinea che comunque superata la soglia dei 300.000 morti, ormai si può calcolare che muore un americano di Covid ogni 40 secondi. Naturalmente tutti i giornali hanno la foto di questa infermiera di terapia intensiva che si è fatta il vaccino ieri, il suo nome è Sandra Lindsay, e le prime parole che ha detto è I trust the science, mi fido della scienza. Che meraviglia, ragazzi. abbiamo detto più volte, sarebbe bello, forse almeno per me, un mondo in cui non si dicesse bianco, nero, afroamericano, perché in questo caso è molto importante dire anche che è un'infermiera afroamericana, perché tra gli afroamericani è ancora più alta la percentuale delle persone che dichiarano di non fidarsi del vaccino, di non fidarsi della scienza e di non volerlo fare. Questo perché, tra l'altro, in passato ci sono anche stati dei casi in cui si è dimostrato che le sperimentazioni di alcuni farmaci venivano fatte sugli afroamericani, usati non dico come cavie ma quasi. Quindi questo ha aumentato lo scetticismo, e Sandra Lindsay ha proprio detto io non farei mai niente, non consiglierei mai a qualcuno di fare qualcosa che io stessa non vorrei fare, quindi eccomi qui, mi vaccino, I trust the science, quindi prendetemi, insomma fidatevi di me, ecco, fidatevi della mia scelta. Anche perché che alternative abbiamo a, come dice lei, a fidarsi della scienza? Non è che ci sono molte alternative, con tutti i dubbi, perché io dico sempre che su questa questione qua i dubbi vanno accolti, vanno compresi, no? Le paure e i dubbi. Certo, però poi l'alternativa è che la scienza risolva questi dubbi. Certo, non siamo noi qui che possiamo risolvere i dubbi. Pensa anche a quello che diceva Giorgia Scaturo, sì, no? È detto anche dal ministro della salute Hancock e dai ricercatori, è già addirittura questo virus che come tutti i virus fa il suo lavoro, muta per adattarsi alla situazione, pare sia già mutato, quindi davvero noi come esseri umani abbiamo le armi che sono quelle della ricerca, e non vedo anch'io altra soluzione se non per esempio quella scelta da Donald Trump e Rudolph Giuliani di prendere un farmaco sperimentale, lo ripetiamo sempre, quel famoso Regeneron, sempre scienza è, però. $500,000 a dose, assolutamente sperimentale, quindi noi appunto small guy, little guys, come dice Financial Times, abbiamo questo, il vaccino. Ci fai ascoltare anche un'altra voce? Sì, sai che non mi ricordo più come ho scelto. Oddio, sono stanca, ho bisogno anche di un po' di vacanza. Sì, è il repubblicano Mitchell, sì. Senatore repubblicano, molto vicino a Donald Trump, l'ha difeso a oltranza in tantissime occasioni. Ieri però ha mandato una lettera al Partito Repubblicano, ha detto: io da oggi passo al gruppo degli indipendenti, perché enough is enough. Se dopo la certificazione del voto ancora Donald Trump continua a dire che però bisogna aspettare, che il 20 gennaio potrebbe non essere Joe Biden il presidente, io a questo punto vedo troppo il pericolo che vengano messe in discussione i fondamenti della nostra democrazia. Sentiamo le sue parole, pochi secondi proprio. It became clear to me that I could no longer be associated with the Republican Party, that leadership does not stand up and say the process, the election is over. It's over today. Qualcuno potrebbe anche dire che sale sul carro dei vincitori, no? Perché potremmo anche vederla così. Sì, non è proprio un cambio di casacca come sarebbe qui. Esistono anche da noi il gruppo, insomma, il gruppo misto. In questo caso è proprio io, con il mio peso di, tra l'altro è un uomo che ha più di 70 anni, un grande passato da repubblicano ed anche da congressman, dice: no, io non posso più, non sono a posto con la mia coscienza se continuo a far parte di un partito il cui leader in particolare non riesce a dire it's over, è stato deciso, il popolo ha votato. E quindi insomma molti giornali ipotizzano che ci saranno altre scelte di questo tipo nei prossimi giorni. Titoli dei giornali europei invece, Giulia? Sì, naturalmente la Germania è divertente, Tagesspiegel che per esempio dice: il giorno in cui i parrucchieri vennero presi d'assalto, perché oggi è martedì, domani mercoledì inizia poi il lockdown, poi ci si ferma, messa in piega e poi via. Esatto, e mi immagino queste code di persone infreddolite, perché in Germania naturalmente mediamente fa più freddo che da noi, diligentemente in coda, ci sono anche le foto su internet, perché naturalmente sì, si può andare al parrucchiere, ma si deve prendere appuntamento, anche lì distanziamento. E poi anche per esempio la Bild, invece sappiamo un giornale che ama più così i titoli scandalistici, foto delle folle a Berlino, wenn nicht jetzt wann dann, se non ora quando fare shopping, e quindi anche lì ultimissimi giorni per fare shopping. Tra l'altro in Germania c'è stato un boom, ma anche negli Stati Uniti, di vendite di alberi di Natale veri, che poi naturalmente possono essere ripiantati, perché appunto in vista di un Natale più casalingo del solito c'è stata una richiesta che tra l'altro solo in parte verrà evasa, quindi sono anche aumentati i prezzi, però insomma quest'anno proprio senza albero di Natale in casa non si sta. E invece in Francia cosa bolle in pentola? Beh, in Francia naturalmente c'è anche lì questo tema, Libération per esempio titola: prima il confinamento e poi il coprifuoco, e poi cosa ancora? Perché come sappiamo bene anche in Italia, cioè la politica cerca di prendere delle decisioni basandosi sui dati che arrivano ogni giorno e che di volta in volta possono richiedere appunto un tentativo di deconfinamento oppure di nuovo lockdown. Certo che i cittadini, noi francesi tutti, sono un po' perplessi, però pare che in Francia comunque, secondo i sondaggi, un po' come in Belgio, comunque circa l'80% delle persone siano disposte ad accettare anche queste così ondivaghe misure, perché viene compreso che si cerca di contemperare tante esigenze, ma soprattutto di non tornare a un'emergenza negli ospedali, perché tutti dicono: vogliamo prepararci a una prossima, magari non verrà mai, una prossima pandemia, ma non sono cose che si fanno in 6 mesi, in 8 mesi, in 10 mesi. Quindi per ora, se arriva la terza ondata, la situazione negli ospedali più o meno è quella che c'era all'inizio della pandemia, come preparazione. C'è un altro paese che parte con le vaccinazioni domenica. Esatto, Israele, dove naturalmente c'è anche molto, su tutti i giornali israeliani c'è anche molta, molta politica, si muovono tante cose sullo scacchiere medio orientale. Jerusalem Post, per esempio, anche ipotizza che tutto sommato a Donald Trump, al quale tanti dicevano queste mosse azzardate con l'Arabia Saudita, e poi sappiamo la normalizzazione delle relazioni tra Israele, l'ultimo caso, e il Marocco, non avrà successo. Invece il Jerusalem Post, ma anche persino Haaretz, che non è mai stato tenero con Donald Trump, anche perché non lo è con Benjamin Netanyahu, che di Donald Trump è un forte alleato, dice forse in questa situazione così difficile da risolvere come quella medio orientale, un giocatore d'azzardo come Trump forse ci ha insegnato delle lezioni. Però il titolo vero e proprio è che la vaccinazione inizierà domenica. Sapete che domenica in Israele non è un giorno festivo, lo è il sabato, e quindi un giorno normale si inizia domenica con sempre il vaccino della Pfizer, in attesa che magari ne arrivino anche altri, cosa che probabilmente succederà nelle prossime settimane. Grazie Giulia, ci risentiamo domani per la puntata di oggi. È tutto con Alessandro Schirano in redazione, Alessandro Marcotulli in assistenza, Andrea Roccabella in regia. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Buona giornata, ciao.